Italia in controluce. Buongiorno, oggi è l'11 marzo ed è la prima delle due edizioni di Italia in controluce, il quotidiano di Radio 24 con taglio da magazine ed inchiesta. Quelle che vi raccontiamo questa mattina sono due storie del passato, venute a Milano e a Roma tra il 1978 e il 1980, in quelli che si chiamavano gli anni di piombo. Due storie di ragazzi uccisi solo per le loro idee. Il racconto di Cristina Carpinelli. La storia è apparentemente intricata, ma in realtà abbastanza semplice. Difficile è dimostrare quanto stiamo per dirvi. Quello su cui ci muoviamo è il periodo che va dagli omicidi di Fausto Iaio, avvenuti il 18 marzo 78 a Milano, e Valerio Verbano, ucciso il 22 febbraio dell'80 a Roma. Chi sono questi ragazzi? Sono giovani, in tutti e tre i casi, impegnati in azione di controinformazione. Valerio Verbano, in particolare a Roma, va davanti ai bar dove si radunano i NAR, cioè i membri della destra eversiva, che, come si dimostrerà in seguito, sono parecchio vicini ai servizi segreti, e li fotografa e scheda tutti gli incontri. Li cataloga in un dossier di oltre 400 pagine che tiene a casa. Anche Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci fanno controinformazione, documentano un traffico di droga gestito da ambienti della destra eversiva con la criminalità organizzata. Ma, secondo Gigi Mariani, avvocato delle famiglie di Fausto Iaio, tutto questo non c'entra con la loro uccisione. Il materiale che raccolsero per la controinformazione è un materiale, direi, molto di superficie. Allora, sicuramente scarterei l'ipotesi che sia stato un regolamento di conti relativo alla controinformazione. Io credo che per capire perché questi due ragazzi sono stati uccisi il 18 marzo non si possa prescindere dal contesto politico che si era creato due giorni prima, 16 marzo, quando è stato sequestrato dalle Brigate Rosse l'onorevole Moro. Qualcuno ha pensato bene di intervenire in questo contesto e di esasperarlo ancora di più per creare i presupposti di qualche disordine, eccetera, che giustificasse l'emanazione di leggi speciali. Fausto e Iaio verranno freddati il 18 marzo in via Mancinelli a Milano. Il killer spara 8 colpi. I bossoli non vengono trovati perché chi spara usa un sacchetto per tenerli, ma uno scappa fuori. Lo ritroverà incastrato tra la strada e il marciapiede un giornalista dell'Unità, Mauro Brutto. Il proiettile, consegnato da Brutto agli inquirenti, è di una calibro 7.65. A coordinare le indagini sulla morte di Fausto e Iaio è il giudice Salvini. Due anni dopo, Valerio Verbano viene assassinato a Roma, nella sua abitazione nel quartiere Montesacro, davanti agli occhi dei genitori. Per uccidere, i killer usano, anche in questo caso, una calibro 7.65. La pistola, però, viene dimenticata dal killer a casa di Verbano e resterà negli uffici della Procura di Roma. Nel 1997 il giudice Salvini chiede una comparazione tra la pistola ritrovata a casa di Verbano e il bossolo trovato sul luogo dell'uccisione di Fausto Iaio. Per il giudice c'è una somiglianza tra le striature dei proiettili che uccidono Fausto Iaio e Valerio Verbano. Si occupa di fare consulenza al caso Aldo Gianulli, che ci racconta così. L'inchiesta, come si sa, quella riapertura d'inchiesta venne poi archiviata perché il PM non ritenne che ci fossero gli elementi sufficienti per una sua riapertura, diciamo, per proseguire nella riapertura. Sostanzialmente ritenne che, non essendoci collaboratori di giustizia, non ci fossero sviluppi nell'inchiesta. Personalmente invece ero di parere un po' diverso. Io ritenevo che ci fossero emersi elementi che in qualche modo potevano collegare il caso dei due ragazzi con il caso Moro. Mi limito a dire una cosa, non dimentichiamo che l'uccisione dei due ragazzi avviene esattamente 59 ore dopo il rapimento di Moro e che uno dei due ragazzi abitava esattamente di rimpetto alla base delle Brigate Rosse di via Montenevoso e verrà poi scoperta a ottobre. Io credo che tuttora sia una pista viva questa e io credo che vada ripresa seriamente la pista dei NAR. Lei sta anche ipotizzando la possibilità che ci sia la stessa mano dietro anche l'uccisione di Verbano? I punti di contatto sicuramente ci sono e sono i punti di contatto che portano ai NAR. la pistola che era stata smarrita da uno degli esecutori, poi non venne ritrovata nell'ufficio colpi di reato dove avrebbe dovuto essere. Questa poi è una storia segnata da continue sparizioni dall'ufficio corpi di reato, per cui questa è una delle caratteristiche di questo caso che lo rende anomalo e per certi versi sospetto. La Beretta si trova infatti a Palermo. È a Palermo perché periziata nell'ambito dell'uccisione del deputato democristiano Piersanti Mattarella. I reperti vengono poi trasferiti da Palermo a Roma e saranno nuovamente nelle mani degli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla morte di Valerio Verbano. Si occupa, come giornalista, di questo caso anche Giovanni Bianconi, del Corriere della Sera. Quello è un periodo particolare in cui vivere a Roma e fare militanza politica nei due schieramenti estremisti opposti era molto complicato. Perché? Perché c'era la violenza, perché si rischiava di venire. E quindi anche da questo derivava la schedatura degli avversari, per cercare di capire chi nei diversi quartieri della città, e la schedatura di Verbano andava anche oltre il suo quartiere, ma prendeva quasi tutta la città, chi erano i fascisti più attivi a seconda delle varie zone. Dunque, questo Verbano ha una storia particolare, perché Verbano, prima di essere ucciso, un anno prima fu arrestato perché fu sorpreso ad armeggiare con un ordigno. In quell'occasione ci fu una perquisizione a casa sua e fu sequestrato il dossier. Quando poi lui fu ucciso un anno dopo, quel dossier poteva essere uno spunto d'indagine, lo andarono a cercare e non si trovava, però in realtà poi c'era, perché per esempio adesso è tornato fuori perché i carabinieri l'hanno trovato nei loro archivi. Non era solo Verbano a lavorare a questo dossier, c'erano vari compagni che ci lavoravano, lo dimostra il fatto che le schede sono scritte anche con calligrafie diverse. Infatti un'ipotesi investigativa è che chi l'ha ammazzato fosse andato a casa sua per avere informazioni su chi era la spia, perché quelle sono informazioni, alcune delle quali possono venire soltanto dall'estrema destra, cioè dall'ambiente neofascista del quale parlavano. La prima edizione di Italia in Controluce, raggiungeteci anche su Facebook, Twitter oppure sul nostro blog radio24.it, via mail controluce@radio24.it. La mia voce torna oggi 13:30 con Scuola in Controluce di Piera Ceci.